E beh, Antonio. Ciao Carlo, buonasera. E allora, sì, adesso mi sono seduto, stavo facendo un po' di pulizia a casa e adesso mi sono seduto al computer, ho acceso la radio. Niente di che, giornata oggi, stamattina sono uscito da presto, a piedi, avevo da fare delle commissioni, niente, adesso ho visto che sta qualche gocciolina, ma poca roba, è di nuovo nuvoloso. Ho fatto una macchina, Margherita, non l'ho vista. Io mi sono chiamato a letto, mi sono coricato un po'. Sono con la 48 già andato, ho girato stanza 2, che sarebbe la camera da letto, addirittura la 400 con quella modulata, perché io ho un commutatore, capito? Ah, è buono, buono, quindi giri la levetta e passi all'altra, già è buono, e avere quella possibilità di anche di due apparati o due antenne col commutatore, una ultima cosa, capito? Ti dà la possibilità di cambiare tranquillamente. Bene, bene, segnale sempre buono il tuo qua, capito? Fondo scala, radio ultima. Ecco, la pedra è una, il commutatore fa funzionare tutti gli apparecchi. È una remota, pure la antenna, ma manco no. Vediamo più là. E io ce l'ho uno piccolino di commutatore d'antenna, nell'altra casa ce l'avevo, perché così lì avevo collegate due radio, quella più piccola e questa più grande, e quindi passavo da una all'altra, capito, senza stare a scollegare niente, giravo la levetta e già era buono, e l'antenna era unica, però, capito, però potevo passare da una radio all'altra. Io sono così, ce l'ho così lo stesso, e comunque già andrà bene. Beh, ti sta soddisfacendo questa antenna? Rispetto all'altra c'è un abisso, capito? Sia in ricezione ma anche in trasmissione, ho fatto ieri diversi controlli, capito, da altre parti, e arrivo più forte, capito, di segnale soprattutto, cioè arrivavo anche con l'altra, però adesso c'ho il segnale più alto, capito, a chi arrivavo 7-9, adesso arrivo 9+20, e quindi quello la dice lunga. Sì, tutta un'altra storia, ma te l'avevo detto, te l'avevo anticipato io, stavo parlando di un'antenna e di tutta un'altra antenna, stiamo parlando di due cose diverse, stiamo parlando, vabbè, un antennino da un metro cosa pretendi, non è che si può pretendere molto, la sua resa massima ce l'ha quando è sul tetto. Infatti, anche se quella era caricata, però sempre bassa era. Questa l'ho sistemata più in alto, Anto, ho messo un palo da 2 metri e l'ho sollevata proprio dalla ringhiera, alla ringhiera praticamente molto più alta, sarà diciamo almeno a 60-80 centimetri dalla ringhiera in altezza. E l'ho staccata un pochettino dal muro, capito? Ho messo il tubo e poi il supporto che l'allunga all'esterno, capito? E dovrò fare qualche ulteriore prova, se riesco a far scendere appena il ROS è ancora meglio, perché così ce l'ho a 1 e 2 a secondo del canale, va a 1 e 5 massimo, ma non di più, anche in banda laterale sempre 1 e 2, 1 e 5, se riesco a farlo scendere un altro po' è perfetta, e poi vedo un po' di girarla verso destra, così almeno magari riesco a ricevere un pochettino meglio, perché nella zona del monte arrivo bene anche a Gianni eccetera, mi sente Tonino. Ieri ho fatto anche un controllo con Gavino, che credo, se non ricordo male, Gavino è fuori Sassari, verso, quasi vicino a Porto Torres, e gli arrivavo Santiago 7, capito? La radio era buona e mi sta anche bene, capito? Va bene, non si può pretendere niente, l'antenna, per, io ripeto sempre, qualunque antenna che tu metti, l'antenna per avere una resa massima deve stare sul tetto, appunto. Qualsiasi antenna. Esatto, però questa che ho messo, diciamo, si presta anche a metterla così sul balcone, qualora uno non ha la possibilità di metterla sul tetto, già è buono il segnale e anche la resa, già sono ottime antenne. Comunque il puntale, quello più alto, è tutto in alluminio, quindi anche quello conta, capito? E invece il radiale di sotto è nero, è tipo una frusta nera caricata pure, quindi già è, diciamo, assemblata bene, mi sembra, come antenna. L'alternativa è quando non è, già se scendi forte, immaginavoci se quella la metti sul tetto, non so quanto pompa. Già lo credo, sul tetto un'altra storia. Comunque spero prima o poi di riuscirci, capito, a metterla sul tetto, ma adesso, diciamo, un po' antipatico, dai, perché è ancora inverno e la gente è più chiusa dentro casa, c'è freddo, brutte giornate. Quando inizia bene bene la primavera già chiedo di salire, se mi fanno salire, più che altro voglio dare un'occhiata e vedere dove sono messe le antenne, le altre, quelle della TV, le parabole, se c'è lì la possibilità di mettere un palo anche corto, perché non mi interessa mettere un palo lungo, anche un palo massimo di 2 metri, anche se poi mezzo metro mi rimane sotto, che lo collego a delle zanche eccetera, capito? Una volta che ce l'ho sul tetto, fine della storia, capito? Metto una buona antenna, che ce l'ho, quella che mi ha dato Claudio, e la lascio finché non si rovina, capito? Perché ancora è seminuova quell'antenna, la devo un po' pulire. Adesso, in questi giorni che sono in ferie, un giorno scendo giù in garage, me la pulisco tutta, capito? Perché l'alluminio un po' esposto alle intemperie, ce l'avevo un anno e mezzo sul tetto, sì, c'è un po' di ossido eccetera, pulisco tutto, e così quella, qualora mi danno il permesso di metterla sul tetto, capito, è già bella pulita, pronta, gli controllo tutti i contatti e la devo solo assemblare, fissare sul palo e buonanotte, ed è messa, capito? Da lì è sempre forte quella, arriva la bomba, arriva. Pensa che quando ce l'avevo nell'altra casa il ROS era sempre a zero, capito? E con quella scendevo anche un pochettino di canali e salivo, e massimo, capito, attaccato saliva uno, ma non di più, uno e due, non di più. Quella buona è come antenna, capito? Io non sono mai stato contrario a questa cosa qua. Io sono sempre a 5 watt, che a 100 watt io sono sempre a 1,1, perché bisogna, nel rosmetro, bisogna capire la scala, cioè bisogna metterlo scala 200, quindi nel mio è così, quando vado a 80, 90, 100 watt, lo metto lì a scala 200, però a me il rosso mi dà sempre lo stesso, capito? Non mi sale, non, secondo me non è così, dico tutti che sale, no, non è così. Se tu hai le stazionarie a 1,1 devono stare, l'unica cosa che cambia è la scala di potenza, capito? Che logicamente devi tararlo, cioè quella, a me non mi salgono, sarò io. E dipende da quanto cavo hai, da penso, e più è lungo il filo e più penso ti salgono le stazionarie. Invece se dall'antenna alla radio, diciamo, il tragitto è più corto e quindi usi un filo, un cavo più corto, allora penso che le stazionarie rimangano anche più bassine, capito? E riesci a tararle bene. No, non mi hai capito. Io se uso 50 watt, 80 watt e vado nella scala giusta nel rosmetro, sempre 1,1 rimane, capito? Se io uso 5 watt mi dà stazionale, me da 1,1. Se io ne uso 100 me ne dà 1,1 sempre, capito? Però la scala dei watt aumenta, capito che ti voglio dire? Però sembra 1,1, Sì, sì, no, quello l'ho capito, però può darsi che a te ti risulta così perché hai un tratto di cavo abbastanza corto, capito? Tra l'antenna e la radio, diciamo, c'è poco cavo e quindi sei riuscito a dargli quella regolazione ottimale che anche se attacchi, diciamo, 80 watt o 5 watt ti dà sempre quel rapporto di 1,1, capito? Invece se tu avessi un cavo più lungo, io penso che un pochettino te lo varia, capito? È quello che ti sto dicendo. Poi il discorso tu già l'ho capito, che sale solo la diciamo i watt salgono e la scala delle, diciamo, SVR rimane sempre a 1,1, quello certo. Vuol dire che hai una condizione ottimale tu tra, diciamo, antenna e radio, capito? È per quello che ti dà sempre lo stesso valore delle SVR, capito? Ma secondo me tutti sbagliano, capito? Perché bisogna fare per scala di watt, bisogna fare, capito che voglio dire? Perché anche io se adesso mi metto e faccio una regolazione sbagliata, logicamente le stazionali me ne dà di più, capito? Però c'è, non lo so, anche in macchina è così, ti faccio vedere, cioè, o che lo metti a potenza, o lo metti basso, sempre quello mi dà il valore. E allora c'hai mano buona tu, quando metterò l'antenna sul tetto vieni a darmi una mano, così almeno se c'hai mano buona per la taratura no, non avrò poi problemi. Che rosmetro stai usando tu? Come, Antu? Che rosmetro usi? Allora, ne ho due o tre, capito? Adesso sto usando quello che c'è sulla radio, perché sulla radio ce l'ho, capito? Mi dà sia i watt, sia la potenza, il segnale ricevuto e anche il valore delle stazionarie. Però quando uso l'altra radio non ho questo rapporto, quindi devo usare il rosmetro, ma ne ho uno della Intec, c'ho quello SI110 della Diamond, quello è buono, capito? Quello è molto preciso. E poi ne ho anche un altro della Albrecht, capito? Anche quello funziona molto bene, ne ho due o tre. Cioè, perché poi è uguale al DAIFA, come si chiama quello lì? È Telecom, ed è preciso, è 2001, ed è preciso a quello di marca, come si chiama? E adesso non mi viene neanche a me, adesso li ho tutti giù, capito? E qua, giusto perché in scrivania non ho molto spazio, sto usando quello della radio, capito? Però quando dovrò fare una regolazione più precisa, già collego il rosmetro, è della Diamond, mi sembra che sia la marca. E io uno di quelli l'avevo preso almeno 5 anni fa, capito? E l'ho usato pochissimo, è nuovo, ce l'ho ancora dentro la scatola. E poi oltre a quello ne ho altri due che comunque già funzionano comunque. Gli altri sono più pratici da usare anche in macchina, se lo vuoi usare, eccetera. E qualcosina ce l'ho. Io c'ho quello lì, però è marchiato Telecom, capito? Telecom, ma è la matessigosa, alla fine non cambia niente, ma è che tu funziona bene, è una bomba. Sì, esatto, e ci sono anche radio così, che ci sono radio identiche di diversa marca, così come gli strumenti di taratura, rosmetri, eccetera, no? Quindi quello che hai tu molto probabilmente è uguale al mio, solo che ha un altro marchio, capito? E sono ottimi, hanno due display, uno da una parte e uno dall'altra, capito? Sono molto pratici e non è neanche diciamo ingombrante. Qua avrei anche lo spazio, lo posso mettere anche sotto la radio, perché la radio ce l'ho sollevata e quindi ci sarebbe pure. Infatti mi sa che lo porto su e così vedo un po' se corrispondono ai valori che mi dà la radio a quelli lì, capito? Secondo me no, molto più preciso quello della cosa. E infatti l'antenna adesso, la prossima settimana, se fanno belle giornate, un giorno che ho tempo, capito, la sposto, la faccio scendere un pochettino, sollevo il puntale e vedo un po' il ROS, però mi porto lo strumento da giù, capito, perché anche io ho l'impressione che con lo strumento faccio una taratura migliore, capito, rispetto a quello della radio, e poi così mi baso, capito, una volta che ho usato quello esterno di rosmetro, capito, che è più preciso e alla fine poi vedo il riscontro con la radio e così almeno i controlli che faccio e che do saranno anche più precisi. Io non ne ho mai usato la radio, non l'ho mai usata, ma mi è sparito uno che lo era perfetto, era uno degli unici che era una bomba della Zeta-Gigia. E Zeta-Gigia ne faceva di buoni, capito? Penso che come marca ci sia ancora. Della ZG io avevo un lineare piccolo da 80 watt, però l'ho dato via perché tanto non lo stavo usando. In macchina, l'avevo preso per la macchina, ma l'ho usato pochissimo, poi alla fine l'ho dato via, capito? Me l'hanno chiesto e ho detto che cosa ne faccio. E in effetti lo usavo poco, perché comunque se hai un buon impianto in macchina e metti una radio performante, e Gianni e anche tu quando non sei attaccato esce bene comunque, capito? Basta che siano almeno una ventina di watt, capito? A voglia che esci. Bravo, già mi faccio sentire io. Radio sempre auduro. Ricordo, quando voglio a casa c'è anche Gabriele, vattene via la lì. C'è anche quello bello performante. Come attacco su, mi voce. Certo, ieri c'era Gianni in macchina che è uscito a fare ieri sera delle commissioni, ha attaccato la radio e anche lui diciamo che ce l'ha cavata bene, che Gianni lo sento dappertutto, era a Predanieta, poi era al monte, lo sentivo sempre, con un buon segnale, me lo sentivo sempre 9, 9:20, e capito, la radio che ha in macchina è molto bella, poi l'ha portata su a casa, l'ha provata a casa, è molto potente, capito, penso che abbia una trentina di watt. Un male di più. E infatti l'unica è quello, cioè metti in macchina, metti qualcosa di potente, non stai con lineare né niente, capito, attacchi radio e antenna e boom, capito. E una volta che l'antenna l'hai tarata, neanche il rosmetro ti serve più, capito? E vai tranquillo, attacchi la radio e basta. Io infatti se la dovessi rimettere in macchina la radio, mi cerco una radio che abbia insomma abbastanza potenza senza nessun lineare, ma mi bastano anche una ventina di watt. Poi quello che importa è l'antenna. Ma tu cosa stai usando per la macchina, Anto? L'antenna esterna, quella frusta? Guarda, se sei una persona abile come me, già lo so che tu lo sai fare. Lo fa l'impianto talmente bene che non si vede nulla, non si vede in giro. Non si vede manco la stufa, lo fai solo tu dove. Ma il giorno che sei venuto qua a casa invece avevi un'antenna di quelle con lo stilo in acciaio, o sbaglio? Poi l'hai cambiata. La mia al ballerina non mi sa ancora, mi tocca tagliarvele. Eh sì, perché quelle sono troppo alte, capito? Anche quando vai in certi parcheggi che sono bassi ti tocca. Invece se prendi l'antenna, quella frusta che è caricata, è molto più bassa, capito? E passi dappertutto. Napoli! Oh! È tardo! Mia volta zia, cosa? Oh, non mi viene. A Carlo, lo senti tu? O bene? A Carlo? Ti sento, ma passo basso. Pio, senta Carlo. Ciao Carlo, mi hai sentito? Buonasera Daniele, già ti sento, c'è un po' di QRM ma già ti sento, è che avevo il rosso regolato alto e quindi sotto sotto non ti sentivo. Antonio ha un'antenna sul tetto, ti ha sentito meglio, a te il mic. Ehi, ben ascoltato, non ho capito un tubo di quello che hai detto, però, va bene. Cos'è il movimento? No, è in questione un po' precaria. Da ti sente lui, Daniele da Itiri o Carlo? Eia, Daniele, io ti sento, non so se riesci a sentirmi tu. Dammi ok se mi senti. Non c'è perché avete sentito, avete il segnale che è uscito. E va bene, dai, qualcosina, prima Itiri non lo sentivo, adesso con la boomerang, diciamo, mi arrivi, diciamo, in maniera, non dico ottimale, però dai, accettabile, capito? E devo ancora un po' tararla meglio e girarla appena appena per vedere se trovo spazio verso quella zona lì, Itiri, Alghero. A tuo Pio, lo sento, Pio, vai da QRM, vai, viene. Capo, ha detto che c'è la boomerang, però è un po' in questione un po' precaria per il momento. Daniele. Tu bene, mi senti lì a Itiri? Daniele, Carlo, chi sei? Sì, io già lo sentivo, capito? Lo sentivo, diciamo, basso, Santiago 5, ma era appena appena sopra il QRM, capito? Ma già lo sentivo, l'ho sentito bene anche. Capo. Bisogna fare qualche miglioria, bisogna fare adesso con cominciare l'estate. Ti racco di sopra, oggi pure, quello che ti intende. E infatti dai, per adesso dai, mi accontento così, vedi, già è qualcosa. Prima Itiri, Daniele, non lo sentivo nemmeno. Almeno qualcosina in più sento adesso, dai. È già buon segno. Adesso vediamo se entra l'amico di Sorso, Sanpei, perché non mi sentiva e sono curioso a vedere se adesso mi sente, capito? Se pare che Itiri io arrivo 9:10 mi pare, una cosa del genere. E già lo credo, io lo stesso prima ad Alghero arrivavo 9:10, 9:20 pure attaccato, capito? Arrivavo tranquillamente. Alghero, Itiri, insomma già quando ce l'avevo sul tetto era altra storia, capito? Ma senza neanche poi troppi watt, capito? Già arrivavo a Porto Torres, parlavo con Eugenio, ho capito, e ce n'erano altri due o tre di Porto Torres, capito, però mi ricordo Eugenio che ci parlavo di più, l'ho conosciuto anche di persona e quindi mi ricordo di lui, e poi ce n'era un altro che se non sbaglio poi ha passato l'esame di radioamatore, che entrava ogni tanto, ma non mi ricordo adesso, ce l'ho scritto da qualche parte tutti i nominativi, ma non li trovo adesso. Comunque qualcosina è, almeno ho sentito Daniele, anche se lui mi sentiva passo passo in mezzo al QRM, ha detto, e quindi non ero comprensibile, però è già qualcosina. Io anche nei paesi arrivo molto forte, arrivo molto bene anche. Non mi posso lamentare, sono troppo contento qua. Io ho messo EH500 il cavo. Avevo comprato tutto nuovo quando l'avevo messo, anche il capo, una bobina l'avevo comprato. Ma è grosso oppure quanto l'RG58, quello H che stai dicendo tu? Alla, insomma, 510, non mi ricordo adesso. Norma, quando lei raggiunge 58, ma la resa è molto superiore. Che praticamente una ricezione a paura, una trasmissione che cioè va, funziona quanto è quello grosso, quasi, capito? Una trasmissione e una ricezione a paura, capito? Anche la 58, però. Certo, ci vuoi sapere un cimpollo? Avanti, ci vuoi dai lunghi. Esco forte perché poi io ho sempre le medicine per far andare l'impianto. Ehi, Capanzo, già lo credo. Poi dove abiti tu, lì già è tutto aperto, quindi tu sei sempre uscito forte, ma anche prima quando eri al centro storico già uscivi bene lì lo stesso, già ti sentivo sempre. Però poi sei passato lì a Latte Dolce lo stesso e esci forte perché hai un muro impianto, l'antenna esterna sul tetto, a Puglia. Non ce n'è. Sì, il cavo anche io ho 25 metri che li ho tolti dall'altra casa dove abitavo, però è quello grosso, capito? RG cos'era? 213 mi sa, è quello grosso. Però se qua riesco a mettere l'antenna sul tetto, metto quello più sottile, capito? Me ne cerco uno buono, capito? Me ne prendo un 25 metri, 30 metri e così mi faccio l'impianto come si deve. H155. E adesso me lo segno e così inizio a guardarmelo. H155 cavo per sistemi radio e vediamo cosa ne tira fuori, capito? Se trovo una matassa da 30 metri me la prendo subito, capito? Tanto sì. Ti posso dire che è ottimo, ti posso dire, la resa ce l'ha, ha una bellissima resa, bassa perdita, capito? Ha una bassa perdita e una grande resa, a 58 già c'è la differenza, sicuramente io ne avrò 10-15 metri, 20 metri forse. Discesa acqua, però è ottimo, ottimo. Sì, adesso già me lo cerco, perché ci sono, diciamo, le matasse da 50 metri, ma è troppo, capito? Penso che a me una ventina di metri, forse anche meno, però se trovo la matassa da 25 metri, tanto te lo conservi, perché ci sono anche da 25 metri. Le sto vedendo adesso, l'RG58 c'è matassa da 25 metri, però devo trovare quello H155 che hai detto tu, capito? Già me lo cerco su Google, perché su Amazon non lo vedo, capito? Tutto è siglato RG58 e quindi nulla, capito? Ma appena lo trovo me lo ordino, mi sa, me la compro una matassa da 25. Io ne avevo preso una matassa, mi ne avevo preso. Non l'avevo fatta per una persona. Capolo. Ma buona però, mi capolo. È un po' diverso dall'altro. Ma un ottimo capo proprio, ti posso dire. Molti hanno usato il grigio non è buono come questo è ancora migliore questo nero. Credo che ci sia grigio, nero e forse anche bianco addirittura. Io c'ho il nero. E infatti poi alla fine prenderò il nero anche io. Mai lamentato mi sono, mai problemi. Mi rende. Ho comprato tutto da fuori, ma PL ho preso quelli di discesa, quelli di qua. Quelli che ho comprati da fuori li ho comprati. Roba buona, roba come si deve. anni, più di 2 anni ce l'ho sul tetto. Quasi 3 anni ce l'ho. E ti posso dire, andava. E adesso ho trovato rotolo di 20 metri H155, cavo coassiale 50 ohm, cavo antenna UMTS 3G, GSM, LTE, radio R, insomma si può usare per tante cose, non solo, anche per altre cose oltre le radio che usiamo noi. E costa 20 metri in offerta 17,85. E quello lì sì. Esatto, non è neanche tantissimo, da. Poi ci sono circa 14 euro di spese di spedizione, però magari devo vedere un po' se magari ne hanno anche in GBC, capito? Può darsi che ne portino e magari hanno qualche matassa anche loro, dovrebbero averla. Quello ha il doppio strato, c'ha tipo la calza e poi c'ha anche quella sorta di foglia di rame sotto. Sì. Argentata. Esatto, sì, c'è argentata, esatto. E poi c'è la calza, insomma, al doppio. Quindi già mi sembra buono, capito, rispetto all'RG58 normale, capito. Se hai trovato a quel prezzo, prendilo, che costa un bel, io l'avevo pagato molto di più. E dipende, perché se lo trovi al negozio, qua devi fare la comparazione tra, qua ti dice 20 metri 17,85, però poi ti dice 14 euro di spedizione in più, quindi alla fine sono intorno ai 32 euro, capito, 20 metri a ordinarlo ti viene. Quindi a questo punto vedo un po' se al negozio 20 metri mi costano di meno, me ne prendo 20 metri, capito? Mamma co, non te ne punisci di chi sono conto, qua non ce n'è, deve fusare, va, l'RG58, ciao, no, non ce n'è quella roba qua. E non è allora. Sì, infatti, poi alla fine conviene ordinarlo, capito? E ne sto guardando un altro, cavo coassiale H155, super flessibile, guaina nera da 0,5,5, praticamente a 1,29 euro il metro, capito? E poi ne puoi ordinare 20, 40, 60 metri, a 20 metri alla volta, capito? Le matasse, capito? Quindi alla fine, capito, bisogna vedere, perché qua 40 metri ti costa 51, capito, con le spese di spedizione comprese, però se ne prendo 20 metri mi costa la metà. Adesso qua sto guardando una matassa da 40 metri, quindi se la trovo da 20 metri, così diciamo con una ventina di euro, 25 euro 20 metri li già li trovo. Cappa, te lo sto dicendo, sono un capo buono quello, cioè, è un ottimo capo, prima lo facevano anche grigio, lo facevano, eravamo matessi, la verità è, poi c'è qualcuno che usa anche quello grosso, usa, come si chiama l'altro? Vabbè, il capo grosso è uno dei migliori. Anche il 213 non è male. C'è qualcuno che usa quello che costa un bel, quello che usa Claudio. Adesso costa un pacco di dinaco. Però è un ottimo filo. E anche io ti ho detto che ho la matassa da 25, ma l'ho chiamata 213, però è quello buono, capito? E quello, adesso non mi ricordo la sigla, cioè sul cavo già c'è, capito? Però è troppo grosso, è anche abbastanza flessibile, però è troppo grosso da mettere qua. Quindi se riesco a metterla sul tetto, meglio dare meno nell'occhio, mettere un cavo più sottile, capito? Basta che sia buono. Mi prendo un ottimo cavo e sono a posto. Sì. Ma che l'RG 4 a 1 non è male. registrare, ma non male. Però qualche 155 è una marcia in più, è molto migliore, lo sto dicendo. Vediamo, lasciamo appena appena di spazio a vedere se c'è qualcuno. Oh, Anto, riprendo, dai, no, non c'è nessuno che vuole entrare. Ascolta, io adesso stacco un attimo, faccio un attimo di bianco, che mi metto a posto alcune cose che ho lasciato in giro e già lascio la radio accesa, nel caso ci sentiamo tra una ventina di minuti, va bene Anto? Ok. Sì, a dopo allora Antonio, ciao, a risentirci. Ciao. Brava, a duro origine. Cosa sto odiando? Hai detto un attimo un cazzo, ma oramai sei facciato un mese di lunetto, sicuro. Beh, come mi senti bene? Beh, Antonio, mi senti bene, sì o no? Boh. Chi tu sa, guarda qua, ma facciato un letto, porco mondo, ho capito, tic-tac, che cosa c'è? Non sai come sono i bambini che si vogliono abbandonare, a saltare, ecco, lunetti facciato. Ah, pensavo io, boh. Pensavo che ero io il problema, boh. Tic-tac, boh. E invece adesso va bene. Sta funzionando bene, quanto sembra. Lo sento la Battucci prima. Com'è l'audio in ricezione? Perfetto, com'è? Abbastanza bene. Grudiato, andiamo a vedere. Odiato. Allora, se tu odio, già te lo faccio sentire, là. Ok. Cosa allucinante sei, sembra che sia stabile adesso. Tu guarda che io trudieggia, prima trudiava, ma trudieggia di più. Parlato troppo presto. Perché fa così, cazzo? Vaffanculo, cazzo. Parecchio, no, è una cazzata, perché è una cazzata. Beh, ma, però. E aspetta, aspetta, guarda. Aspetta, io c'ho anche il problema del come si chiama. Adesso stasera mi faccio il PL nuovo perché c'ho il PL che in pratica a volte segna a W, eccetera, eccetera. Hai capito? A volte faccio parecchie anche cose, quindi a un certo punto non devo stare a diventare scemo. Adesso stasera mi faccio il PL nuovo, mi faccio. Adesso vediamo un pochettino, con la rigida 113 lo sai anche tu, quando c'è il cavo grosso che sai attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, stacca, a volte sembra che ti diano, cioè che non esca bene. Adesso vedi, non sta facendo niente. Quindi, adesso, fra un po' mi faccio il piede nuovo adesso. Così vediamo un pochettino come funziona, perché c'ho la calza che è quasi al positivo, hai capito? Quindi potrebbe darsi anche quello, niente di sa, che succede in testa per niente, che non è possibile. Adesso in trasmissione è perfetto, l'eccezione non mi ha fatto quel difetto per niente. Antenna e vabbè, quella che già lo sai anche tu, devo staccarla e cambiarla, perché me lo fa anche sta, ma però questa è una cazzata. Comunque sta uscendo bene adesso. Adesso mi faccio il piede nuovo, mi faccio come si deve, vediamo un pochettino come si comporta. Attacco dall'antenna. Secondo me non è così, secondo me con l'aereo sta facendo freddo. È qualche cosa che tu non hai capito cosa è. È qualche resistenza, qualche componente. Che vuoi dire? Che vuoi dire? Come scalda, poi non lo fa più. No, sta andando bene, la sta funzionando bene. Quindi, io ho saldato alcune piste, adesso vediamo un po'. Boh, andava tranquilla. Prima cominciava dall'inizio, adesso invece l'ha fatto dopo. Ti posso dire un minuto e mezzo, no? Non di più, quindi è capita la cosa. Hai arrivato là, forse ho azzeccato. Adesso vediamo un po'. Tu come mi senti di radio? Bene? Sì. Mi sento bene. Gabriele, io ci sono un letto che è rotto. Gabriele! Ma veramente, cazzo, tutti i canti di colore mi incombinati di più. Ma non è bene, mi. Ascolta. Il discorso è quello, già lo sai. Hai cavalcato il cavallo e l'erba cresce, il discorso è quello. Anch'io avevo avuto lo stesso problema, la verità. Anche a me piacciono i figli, però a un certo punto sarei sveglio la notte, eccetera, eccetera, e me ne sarei pentito come nulla, me ne sarei pentito a un certo punto. Fino a 2 anni. Dopo 2 anni, tranquillo, sei stato tranquillo, ma perlomeno l'avevo sopportato. Quindi purtroppo è così. Tutti hanno, cioè piace un figlio, avere un figlio, il discorso è quello. Però poi dopo che ce l'abbiamo, cazzo, tornando indietro avete detto cazzo, e non mi avevo messo il sigillo, cazzo, di plastica, cazzo, e avevo messo l'integrato, cazzo. Non è così, a me il problema è che il bambino va cresciuto in due, padre e madre. anche quello che è successo, perché in due ce la fai, se la sera stata lei era tutto diverso, perché in due ce l'avevo fatta, ma io una persona sola, cazzo, c'ho un po' di difficoltà, e pesanti crescono da solo, perché è una cosa troppo per sì, mi stanno aiutando, ma non basta, non basta, perché ci sono tante cose, ci sono. Lo so, già ti capisco, già non ti capisco, non ti preoccupare. Io sono la stessa cosa, se non avessi avuto quello che ha avuto Simona, non sarei stato in queste condizioni. Io infatti mi tocca stare a casa, hai capito, stare presso a lei, eccetera, eccetera. Mi sembra di, cioè, in pratica di essere un, come ti posso dire, un infermiere, hai capito? Quindi devo stare sempre appresso a lei, eccetera, eccetera, dargli da mangiare, eccetera. Quello che so cosa vuol dire, guarda, non ti devi preoccupare. Sembra di avere una persona anziana di 80 anni, quindi a un certo punto so cosa vuol dire. Forse è meglio avere un figlio, la verità, almeno il figlio, cazzo, lo fai crescere ed è molto meglio, la verità, ci pigli più gusto, capito? Invece così, purtroppo, è diversa la cosa. Lo so. Qua è successo una tragedia, è successo purtroppo, se non noi non avevamo problemi, eravamo moglie e marito, eravamo e basta, eravamo tranquilli, purtroppo Simona ha avuto un'esperienza brutta, ha trovato la persona sbagliata, cosa vuoi fare? Anche quello succede nella vita, meno male che ce li ha grandi già, se no guai, è stato un casino. Vabbè, purtroppo è così, ce l'ho e me la tengo così come stanno le cose. Quindi devo stare a fianco a lei ogni giorno, mattina e sera, eccetera, eccetera. Se no c'avevo due ore di svago, quello che è, capito? Quindi è come avere come ti posso dire, un figlio, stare qua, non posso lasciarlo da solo, quindi a un certo punto è quello. Così. Avanti che vuoi entrare. Buonasera a tutti, salutarvi. Buonasera Daniele. Buonasera dottore, ascolti, ma mi sente a posto, centrato, oppure sono fuori frequenza? No, già ti ho monitorato prima, Antonio, già sembri centrato, sono 75, qua sei perfetto. Ah, sono contento, almeno quello c'ho di buono, beh, ti ho fatto la tua volta. 067, una cosa del genere, quindi sta funzionando bene adesso, là. Si sta stabilizzando l'apparecchio, adesso lo sto provando, gli ho fatto alcune salature e quindi è tutto, mi ha fatto scaldare come si dice, sono il figlio gli metto in fuori poco un poco e la biglia in culo. Ciao tu, hai sentito anche a te. Ma già funge Antone, mio figlio è giusto a me, arriva in 4 ore adesso, nel tempo. Mi è partito il fusibile, con l'esterno io ho sostituito. Però ho un altro problema sul 14, sul gemello che sei tu. Si accende, metto ai canali, cioè come adesso, sintonia continua, e a un certo punto gli spessi fa a trattini e inizia a fare bip, e la batteria tampone. Bip, di che apparecchio stai parlando? Gemello che c'è sulla 140. 640, è strano, il 140 è una cosa del genere, la verità non mi è mai successo io, da quando ce l'ho. quindi è strano perché faccio una cosa bip, non è che forse ho capito la batteria della memoria. La batteria tampone che c'ha sicuramente, che l'altro giorno, domenica, c'era preparazione, c'era questo, stava arrivando un fuoco, la piacere, la portante, boom, si è sospeso tutto, ma si è cavato nel successo. Controllo il fusibile che c'ha dietro ed era buono, lo apro e controllo il fusibile e era in corso il fusibile. Oggi sono riusciti a spento. Tra l'altro il sole è stato fusibile, l'ho messo. Così ho fatto sempre salda, di salda e salda, dai quelli assaldati ai figli. E infatti poi sono andato ad accenderlo e fa questo problema qua. Cioè lui si accende, vuol dire sta a 27,65, dopo un secondo il display si fa a trattini e inizia a fischiare, a fare il bip. Daniele. Dimmi qua. Il 140 la batteria tampone non ha niente a che fare, niente, la batteria tampone del 140 e del 70 servono solo per memorizzare la frequenza. È partito il PLL lì. Di cacchio, lo stai consolando? C'è la stessa consolazione del 440. Quello ti segna bip, il 140 per fare bip devi toccare, tocchi il down e up e fa bip, quello te lo fa in automatico, ok? Quando lo accendi, appare la frequenza, poi si spegne la frequenza e ci sono tutti i puntini e fa bip, mettiti in tasca 180 euro. Cava. Era così all'improvviso, amico, stava puntando tutta la mattina, era acceso. Poi ho finito con la propagazione, va a schiacciare, poi si è spento tutto. Perché si è spento tutto? Vuol dire che c'è qualcosa in corto. C'era qualcosa in corto al momento in cui tu sei andato a schiacciare il PTT. Anche un PL lo fa. Ricordatevi sempre che anche un PL ti manderà lì in corto. Io fortunatamente un amico fraterno me l'ha messo a posto, ma io per un PL ho fatto un danno allucinante all'Incom, capito? Eppure era acceso, stavo ricevendo. Facciamo delle prove in 6 metri, io in 6 metri, schiaccio la portante, boh, morta la radio. Grazie allora. Allora è lui, cla, come stai dicendo tu, sono andato in corso il fusibile all'alimentatore, quello che c'ha dentro del 430. E niente, ecco perché è partito allora. Un cattore d'antenna c'hai? No, qua, antenna diretta c'ho io. No, le inverti, quando invece da attaccare uno, attacchi e attacchi. Il 140 è quello. Il 440 ti si fanno i puntini e sta zitto, capito? Quello invece è più piccolino e si mette a cantare da solo. Quando tu l'accendi ti appare la frequenza, poi ti sparisce e appaiono i puntini e poi fa bi. Addio. Vabbè, quando sarà il momento ci pensiamo. Adesso già c'è questo ancora. È molto strano, perché ho muretto. Io, preparazione del 440 l'ha già fatto 20, ma 140, 680, mai. Bravo a cosa è genere. Quindi, rassegna di. Ciao Antonio, buonasera. Vi lascio un secondo che devo andare a iniziare a sistemarmi la caldaia. Ok, ci rientro subito. Vai Antonio. E io d'accordo, non c'è problema. A me non è mai capitato la verità una cosa del genere. Con 140, con 180, con l'altro 140, pure l'altro 140, mai mi è capitata una cosa del genere, la verità. E solo che sia capitato a te. Ehi Antone, cosa vedi? Non lo so. Si fanno poi tutti spesso la frequenza e restano i trattini di sotto. Inizia a fare B, come quando ti accittassi, che fai B, poi quello suono lì fa. Mai mi è capitato a me, mai. In tutta la mia vita, guarda, da quando ho 80, 140, eccetera, eccetera, mai una cosa del genere. Ti giuro, non è mai capitato. Anzi, soltanto sai quanto è durato, più di 20 anni addirittura. Figurati tu, a un certo punto. Poi, dopo di quello, ho pigliato le... avevo preso tre apparecchi con quei soldi lì, no, avevo preso le, come si chiama, l'apparecchio che andava al VU, dopodiché avevo venduto quello, 500 euro, mi avevo recuperato, infatti ho comprato, in pratica, due apparecchi, se non mi ricordo male, adesso non è che, vabbè, ma comunque sia. Dopodiché, una volta venduto quelli, avevo comprato i 140 che mi ha dato Claudio. Poi mai visto una cosa del genere, la verità, mai. Cava, cava. C'è partito il fusibile alimentatore, qualcosa in corso c'era, di sicuro, ma cosa vuol dire? Questo trasportante si sente subito a tempo zero. Vabbè, se ti fate il fusibile alimentatore, glielo cambi e va a fanculo, non costa niente, basta smontarlo, già lo sa che si apre a tipo coso, tipo libro, quindi ci arrivi in automatico, ci arrivi, capito? Quello sì. Anche già sta lì, poi quando sarà lo sistemerò. Vabbè, quello capita. Adesso sto usando l'apparecchio di Antonio, sembra che sta andando bene adesso. Si è stabilizzato, tranquillo, l'ho saldato, acceso, quindi era l'unico modo. Come sto facendo le radio e i segnali? È centrato, a posto, sì. Sì, Antonio, sei a picchi positivi. Sei Santiago 7 a picchi positivi, a 8, sì. La radio già è sempre la sua, se potresti aumentarla leggermente. Ho capito, già va bene allora. Quindi, si è tranquillizzato l'apparecchio, è a posto adesso. Una volta saldato e la saldatura fa, il circuito del sapato fa presa, va bene. Ho visto che non mi sta più rompendo i coglioni, quindi adesso lasciamo tutta la sera acceso, anche domani mattina, lo lascio tutta la notte, adesso vediamo un pochettino come si comporta. Già va bene, dai, io la sento per un po', dai, sentiamo dopo se coincide. D'accordo, ok, non c'è problema. Avanti, a tu, ci sei. Antonio, non c'è. Vabbè, pazienza, ok. Un attimino, che io stavo con Cilice. Stavo sistemando la lavatrice. Non tengo roba a lavare, sto un po'. Sto mettendo la asciugatrice e poi metto altra roba, che viene troppo in giro. Anche qua vuole fatto il bucato. Ho capito. Adesso sembra che stia funzionando bene. Grazie a Dio.